9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon 12 settembre, auguri a Gerardo, visto questo ci propone il calendario liturgico di oggi. Il tema, oggi riprendiamo la nostra auscultazione paziente dei mercati rispetto alla condizione di questo malato dall'incerta cura e dall'autoribaltante ogni giorno terapia che si chiama Repubblica Italiana col suo debito sovrano. Perché? Perché avete sentito, se avete prestato ascolto all'edizione precedente del Giornale Radio, i mercati asiatici sono andati male, i futures dicevano male in apertura di nuovo ai mercati europei, le prime notizie dai mercati in effetti sono negative, spread in attesa italiani, BTP Bund di nuovo in risalita, dobbiamo scontare ancora la notizia che venerdì è uscita consapevolmente, è stata fatta uscire a mercati aperti, cioè le dimissioni dal board della BCE di Jürgen Stark, chief economist della BCE, membro del board, diciamo fedele discepolo di quell'Otmar Issing che ha rappresentato negli anni prima l'ala più ortodossa della Banca Centrale Europea, un'ala che secondo me va molto rispettata, nel senso che sono teorici difensori e sono anche energici attuatori, sia pure oggi in minoranza nella BCE, di una linea per la quale le banche centrali non devono servire a prestare un velo ipocrita di compiacenza verso i governi che mentono, bensì il compito delle banche centrali europee è solo quello di difendere la stabilità della moneta, devono essere i governi a tirare i conti della loro credibilità, la loro credibilità che implica conti in regola, quindi nell'equilibrio di bilancio, ma anche con un equilibrio tra entrate e spese che non comprometta la crescita, come invece avviene nel nostro paese, che ha un debito pubblico ingente, sappiamo da 15 anni cresce pochissimo e da qualche settimana, dopo la manovra di luglio-agosto, è stato messo in linea per ottenere l'azzeramento del deficit al 2013, ma percorre questa strada ancora una volta battendo la via delle entrate e quindi con una pressione fiscale entrate totali che crescono ulteriormente. Ieri su www.chicagoblog.it, sito che ogni tanto vi prego di guardare e che vi aggiorna in tempo reale anche sull'aumento del debito pubblico italiano, il professor Ugo Arrigo ci ha rifatto quattro conti su come si persegue l'azzeramento del deficit attraverso le manovre, il combinato delle manovre luglio-agosto del governo. Io ricordo a tutti che noi guardiamo alla pressione fiscale dall'anno prossimo, siamo comunque entrati nel record storico dell'intera Repubblica Italiana, perché andremo abbondantemente oltre il 44,5%, però se noi facciamo la stima delle entrate sul PIL ufficiale a netto, cioè del 17% che vi ingloba l'Istat, quindi il denominatore su cui poi si calcola nel rapporto il totale di ogni grandezza della finanza pubblica, beh, noi passeremmo da una pressione fiscale che già prossima al 53, a quel punto diventa il 55%. Poi se guardiamo al totale delle entrate pubbliche, quindi non solo pressione fiscale che sono imposte e contributi, ma al totale delle entrate, noi siamo avviati con le manovre pluriennali come disegnate dal doppio intervento luglio e agosto ad ottenere una situazione nella quale totale entrate pubbliche sul PIL è praticamente al 50% al 2014, anche qui è un 50% sul PIL che comprende un 17% di nero, se gli levate quello siamo ben oltre il 60%, quindi totale di entrate rispetto al PIL italiano a quel punto fa definitivamente giustizia di ogni paragone internazionale, diventiamo definitivamente il paese che batte tutti come totale delle entrate sul PIL. Ogni opinione su questo è legittima, la mia è che così un paese non ha futuro, più ancora di quanto non ce l'abbia dopo questa eredità. Vedremo come oggi i mercati scontano queste vicende, nonché le ultime vicende della politica italiana, il fatto che oggi Bruxelles, anzi Strasburgo, e vede il Presidente del Consiglio italiano domani impegnato in visite di cui comprenderete sui giornali che mi pare l'agenda italiana prevalga su quella internazionale, visto che si tratta di evitare incontri con i magistrati. Ma al di là di questo, il punto che vi chiediamo oggi è che sottoponiamo ai nostri ascoltatori è: ci credete voi al pareggio di bilancio così come è introdotto o se ne propone l'introduzione nel nostro paese? Da questi microfoni ci siamo battuti molto negli anni perché si adottasse la linea del pareggio di bilancio in Costituzione alla tedesca, E però lo abbiamo fatto ricordando sempre che questo pareggio di bilancio in Costituzione ha senso metterlo se in Costituzione mettiamo anche un vincolo, o basterebbe interpretare l'articolo 53 attuale della Costituzione, che ci richiami però anche a un tetto di pressione fiscale, così come in Germania per persona e famiglia, che ogni anno viene aggiornato. Perché questo? Perché altrimenti l'equilibrio di bilancio si può perseguire indifferentemente anche per la via italiana, che è quella di inseguire attraverso le entrate l'aumento delle spese, e così il pareggio di bilancio, sia pur positivo, perché è ovvio che i mercati guardano all'equilibrio di bilancio, diventa però un modo, se i politici non sanno diminuire la spesa, se non sanno scegliere quale spesa difendere e quale invece tagliare per questioni di efficienza e di equità, ecco che altrimenti noi raggiungiamo un equilibrio attraverso la via che uccide poi un'economia e un paese. Le obiezioni fin qui, e concludo la mia introduzione, avanzate al testo del governo sono di tre tipi. Il primo tipo è quello, diciamo così, post-keynesiano, che comunque rimane molto vivo nel dibattito italiano, che dice: è comunque sempre un errore mettere in Costituzione l'indicazione al pareggio di bilancio. Si può discutere su questo. Lo stesso Keynes, come maestro, diceva che invece la domanda pubblica va sostenuta in deficit quando le cose vanno male, ma poi bisogna rientrare quando le cose vanno bene. Ma diciamo, questo è un tipo di obiezione che è abbastanza seguita comunque anche nel dibattito economico e tecnico italiano. Poi ce n'è una seconda, quella la nostra, per così dire, quella che dice: bene, ma però ci vuole ancora l'altra metà, cioè il vincolo al prelievo, perché sennò lo equipariamo l'equilibrio di bilancio attraverso molte tasse a quello attraverso la virtù di una buona spesa e tasse commisurate che lasciano libere energie invece per la crescita. Poi c'è anche una terza obiezione che dice: in ogni caso, per come è formulato questo testo, è un testo aggirabile con tanta facilità, poiché non vengono posti limiti di maggioranze qualificate, cioè la maggioranza assoluta, che già non è una maggioranza semplice, però potrà essere aggirato dalla politica tutte le volte che vorrà. Quindi è semplicemente un contentino che diamo ai tedeschi, che ci hanno indicato la strada per questo in Costituzione, ma non faremo passi avanti. Ecco, chiediamo ai nostri ospiti cosa si aspettano ancora da questa BCE e da questa Italia. Ricordo che domani abbiamo tre aste per un bel po' di miliardi di titoli in scadenza, quindi i mercati devono anche incorporare l'attesa per le aste di domani sull'andamento di oggi. Cominciamo la nostra trasmissione. Abbiamo qua in studio Mario Seminerio, che saluto e che ringrazio. Ve lo ricordo, Seminerio innanzitutto è curatore di un blog che ogni giorno io vi prego di guardare, perché trovate delle indicazioni che vanno bene sia per chi ha un occhio specifico sui mercati, ma anche per chi ama il nostro paese e la sua economia. E il blog si chiama fastidio.net, col fastidio col PH. E buongiorno e grazie a Mario Seminerio, che è un portfolio advisor, quindi di mestiere segue i mercati. Buongiorno. E abbiamo collegato con noi Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Germania per alcuni anni. Presto, non riveliamo una piccola notizia, ma insomma andrà a Bruxelles, quindi ancor più nel cuore delle istituzioni comunitarie. Buongiorno e grazie a Beda Romano. Buongiorno. Allora, comincerei con Romano, nel senso che l'Italia è rimasta un po' scossa dalla faccenda di Stark, poi nel giro di poche ore ha appreso che tutto sommato al bordo della BCE era meglio avere Asmussen, il candidato nuovo, meno falco, per così dire, almeno così tutti lo presentano, con qualche simpatia socialdemocratica, ma confermato dal governo attuale al ministero, piuttosto che un tradizionale discendente dell'ala durissima che vuole l'ortodossia della banca centrale, non compiacente con i governi. Nella realtà il dibattito interno è quello che si è scritto sui giornali in Germania, e le dichiarazioni anche dei politici tedeschi cosa fanno intendere? Ci sono variazioni in arrivo su linea acquisto BCE titoli italiani oppure no? Ma credo che la Germania sia in grandissima difficoltà. È evidente che le dimissioni di Stark hanno sorpreso una parte importante dell'establishment politico, ed è in questo momento fonte di nervosismo, perché è utilizzato dalla parte più rigida dell'establishment tedesco. Penso in particolare a una fetta dei liberali, a una fetta dei democristiani e direi anche a una fetta dei cristiano-sociali bavaresi. Le dimissioni di Stark non potevano giungere in un momento peggiore, perché da settimane ormai il dibattito tedesco è tutto ruota intorno al futuro della Grecia, alla possibilità che la Grecia faccia fallimento, addirittura alla possibilità che la Grecia venga espulsa dall'Unione Monetaria. E oltretutto queste dimissioni arrivano a 2 settimane da un voto al Bundestag sul nuovo fondo di stabilità finanziaria che l'Unione Europea ha ratificato alla fine di luglio. Quindi il problema a questo punto è capire quanto le dimissioni di Stark rafforzeranno l'ala più rigida dell'establishment politico tedesco, prima di tutto, e in secondo luogo bisognerà capire quanto le dimissioni di Stark intaccheranno il sentimento generale dell'opinione pubblica tedesca sulla credibilità della Banca Centrale Europea. Credo che se l'opinione pubblica tedesca perde fiducia nella BCE, avremo un serio problema tedesco, molto più serio di quello che abbiamo oggi. Proprio ieri però il Ressler, il vice cancelliere tedesco, è tornato ad alludere all'ipotesi di un, come vogliamo chiamarlo, un semi default pilotato della Grecia. La percentuale di adesione dei creditori alla proposta di roll-out volontario, di iniziare a perderci insomma sugli interessi dei titoli detenuti che vanno in scadenza, perché si accetta l'idea volontariamente di prenderne altri a titoli a più alta scadenza, è molto lontana dalle attese, e quindi da questo punto di vista io non sono convinto che l'apprezzamento con cui in Italia tutti hanno tirato un sospiro di sollievo dicendo ecco in BCE entra un altro sostenitore della linea più morbida, per così dire, sia davvero il punto attraverso il quale leggere questa vicenda. Altro fatto, si è aggiunto questo fine settimana negli interventi di Ministro Tremonti, che parlava da Marsiglia, questa nuova attenzione del governo italiano, sorpresa, dopo tanti anni, verso la crescita. Hanno detto che devono aprire un tavolo per la crescita, devono fare il monitoraggio alle oltre 40 hanno detto, misure per il sostegno della crescita sin qui adottate, riconoscendo che molti di loro non funzionano, ed è evidente che anche qui c'è un eco di una richiesta che non c'è nella manovra, ma che non è una richiesta che c'era invece nella lettera BCE. Allora, Simone, lei che si attende da questi sviluppi in BCE e rispetto alla posizione tedesca su titoli italiani nel prossimo futuro, è vero che siano meno falchi e quindi possiamo stare tranquilli, qui gli acquisti continuano, oppure i mercati guarderanno con un nervosismo ben maggiore a questi ultimi sviluppi, secondo lei? Ma certamente molto nervosismo crescente, perché la situazione è estremamente difficile, soprattutto in questo momento stanno venendo al pettine tutti i nodi di una costruzione europea che è largamente incompleta e incompiuta, cioè si è creduto che semplicemente un'unione valutaria fosse più che sufficiente a tenere insieme i pezzi di singoli paesi che mantengono sovranità fiscale, e si è creduto a lungo che una cosa chiamata patto di stabilità e crescita servisse per impedire che andamenti divergenti mandassero tutto a gambe all'aria. Noi sappiamo che già nel 2005, ai primi accenni di tensioni incomparabilmente più lievi di quelli attuali, furono proprio i tedeschi, i francesi, con l'appoggio italiano, ad ammorbidire il patto di stabilità e crescita. Su questo si è innestata ovviamente una situazione del sistema bancario. Il sistema bancario resta largamente transfrontaliero. Cosa vuol dire? Che le banche tendono a fare raccolte e impieghi ben al di là dei confini nazionali, pertanto si gonfiano di attivi e passivi, e questo determina un moltiplicatore, una sorta di detonatore. Ciò premesso, cosa succederà? È chiaro che c'è un conflitto, perché i tedeschi vedono tutta questa dissonanza cognitiva tra quello che è il loro desiderio di creare una condizione di disciplina fiscale assoluta e quello che è invece un mercato e comunque una realtà che sta andando completamente alla deriva. Basta pensare che siamo in un ambiente internazionale che non cresce, e questo non fa altro che amplificare le tensioni sui debiti, perché i debiti si autoalimentano. Pensiamo semplicemente che per dare questi aiuti ai paesi che sono in assistenza sovranazionale sono state richieste delle misure talmente concentrate nel tempo da esercitare una terrificante stretta fiscale prociclica, per cui sostanzialmente il cane si morde la coda e i problemi si autoalimentano. L'uscita di Stark è chiaramente un modo clamoroso di sbattere la porta e di rivendicare l'autonomia di una politica monetaria che, se posso dire con tutto il rispetto per la tradizione tedesca e la Bundesbank, è un po' da torre d'avorio, ma probabilmente non possono fare altrimenti. Spetta alla politica trovare una soluzione. Il problema è che la Banca Centrale Europea dall'inizio di questa crisi ha esercitato una funzione di ampia supplenza alla politica, se vogliamo, in alcuni casi anche un ruolo quasi fiscale, ad esempio accettando in contropartita dei collaterali di tutti i rating possibili, perché diversamente l'interbancario europeo sarebbe saltato letteralmente in aria. Per cui io credo che occorre pensare alla possibilità che dei default possano verificarsi in area euro, perché i default sono un fatto della vita e non sono qualcosa, al di là di un certo punto, sono qualcosa di assolutamente ineluttabile. Cercare di mantenere in piedi la situazione vorrebbe dire semplicemente moltiplicare i danni. Contemporaneamente però occorre una nuova governance fiscale che richiede la riscrittura delle regole. Qual è il problema? Prima di tutto occorre la volontà da parte di questi paesi, e quindi ci vuole moltissimo tempo. I tempi della politica sono completamente divergenti e discrepanti da quelli dei mercati, e quindi si va, a parte questa confrontation, diciamo, tra le esigenze della politica tedesca e le esigenze dell'ortodossia monetaria altrettanto tedesca, questo è un effetto che può creare un detonatore, per cui i rischi sono elevatissimi. Per quanto riguarda la situazione italiana, io non mi dilungherei eccessivamente. Apprendiamo semplicemente che ora dobbiamo guardare alla crescita. Dai tempi immemori che noi avevamo già da ricostituzionalizzare l'articolo 41, poi probabilmente si è perso nelle sabbie mobili. Adesso scopriamo che ci sono ben 40 misure pro crescita che non hanno sortito effetto, ma, come dice il ministro dell'economia, forse perché sono state comunicate male. Se il problema fosse solo questo, si confermerebbe che in Italia la crisi è soprattutto psicosomatica. Io temo che le cose stiano un po' diversamente. In effetti. Ora, in Germania, mentre in Italia non siamo riusciti in questa manovra a vedere l'allineamento e l'accelerazione dell'allineamento dei tetti di pensionabilità sia per l'anzianità rispetto alla vecchiaia, non siamo riusciti, perché su questo si è attestata una parte di questa maggioranza che, come un solo uomo, ha difeso il fatto che non bisogna accelerare l'uscita. In Germania, dove pure era stato innalzato a 67 anni, il settimanale Focus ha parlato dell'ipotesi che si innalzi a 69 anni, questo tanto per rimarcare la distanza tra ciò che è e ciò che siamo. Romano, in Germania l'osservanza del vincolo che dice che al 2015, se non sbaglio, non oltre 0,15 di deficit rispetto al PIL annuale, allineato però anche con i limiti di pressione fiscale, ha funzionato, ma perché c'era anche il limite di pressione fiscale, oppure come è avvenuto che sono diminuite rispetto all'esplosione del picco di spesa pubblica, di deficit, di bassa crescita 10 anni fa con l'unificazione? Come è avvenuto che sono abbassate sia le spese che le entrate? È stato il vincolo costituzionale oppure è il DNA naturale della convergenza tedesca a determinare questi risultati? Ma direi che è il DNA naturale dei tedeschi, direi semplicemente. I tedeschi non amano fare debiti. Credo che l'idea di introdurre questo vincolo fosse il tentativo così di rimarcare, di sottolineare, di marcare nella Costituzione un obiettivo che in realtà tutti i tedeschi hanno. Ce l'hanno per i propri conti familiari e per i conti del proprio paese. Credo fondamentalmente che sì, è stato utile, è stato un messaggio lanciato a tutti gli altri paesi europei, è stato un modo per spiegare visivamente alla gente per quale motivo, tra le tante altre cose, è stato deciso di aumentare l'età pensionabile, per esempio, ma credo che la Germania avrebbe potuto benissimo farne a meno. E infatti, alla fine poi esistono anche, secondo me, delle tendenze, diciamo, dei sistemi politici, ma che sono anche poi delle tendenze che hanno a che vedere con l'evoluzione nel tempo e i caratteri fissati nel tempo dalle diverse tradizioni economiche, e quindi qui abbiamo a che fare anche con delle tendenze nazionali. Quelle della politica rispecchiano poi davvero quelle degli italiani? E questo è un bel dibattito. La politica col denaro pubblico si comporta come gli italiani con lo denaro privato? Anche questo è un bel dibattito. A me pare di dire di no, però la tendenza storica a far divergere questi comportamenti è molto lunga nel nostro paese, perché affonda le sue radici davvero nei secoli. Cioè, abbiamo testimoniato testimonianze di come per la lotta di parte, quando si afferma la sovranità nelle città italiane e diventa una specie di punto di riferimento di come si costruisce la sovranità diffusa, a differenza di come nelle altre parti d'Europa si fanno gli stati nazionali moderni, anche in quel caso le finanze pubbliche diventavano lo strumento attraverso il quale ci si affermava pro tempore al comando, rispetto a un'idea invece in cui le compagnie commerciali che rimangono più vicine a dare sostegno al potere, che sono l'idea dell'emanazione della sovranità, per esempio nella parte anseatica o delle repubbliche olandese, lì l'equilibrio di bilancio diventa una maniera per rispondere anche ai soci delle compagnie della continuità al governo. Da noi, pur di conquistare il governo, si andava prociclicamente al fallimento e al ripudio dei debiti sovrani. Questo è il primo fallimento della Repubblica di Genova, è così, eh? Quindi ci sono storie diverse, per chi è interessato di storia economica nazionale, che poi arrivano alle diverse tenute dei sistemi nazionali. Eccoci tornati in studio, ancora occhi e orecchie prestate alle reazioni dei mercati. In borsa le cose vanno male, bancari in discesa, Unicredit sta perdendo quasi più il 6% che il 5%, e anche Intesa va malino, MPS perdeva 4,8%, la giornata anche per le aperture di Parigi, di Francoforte e Londra sono tutte tra il meno 2,4%, al meno 3,2%, al meno 3,4%, in questo momento si preavvisa di quelle non certo positive. E stiamo ragionando insieme ai nostri ospiti, abbiamo qua in studio Mario Seminerio, abbiamo collegato Beda Romano, si è aggiunto il professor Giovanni Tria, che è il presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, scrive sul foglio insieme al professor Felli una rubrica che è uno dei punti di riferimento del dibattito di politica economica liberale del nostro paese. Saluti al professor Tria e grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno. Allora, faccio anche a lei la domanda che ho fatto nel primo giro ai nostri ospiti. Primo, crede al fatto che il vincolo sul costituzionale di spesa, questo rafforzato un po' alla tedesca che stiamo mettendo in nostra Costituzione, ma senza il vincolo alla pressione fiscale che c'è invece nella versione tedesca, sia una buona cosa o sia troppo facilmente aggirabile e solo una vana promessa per tenere buoni i mercati? Seconda cosa, cosa si aspetta dopo l'uscita di Stark, dopo che la politica tedesca parla sempre più insistentemente di fallimento pilotato per la Grecia, come coerente all'ipotesi che la Grecia possa rimanere perché non troppo rilevante rispetto all'economia dell'euroarea, cosa molto diversa rispetto al nostro invece di peso specifico sull'euroarea. Mi azzardo anche a chiederle in quest'ultima prima botta se è così irreale quello che molti continuano a escludere, cioè che nel giro di un paio d'anni ci abbiamo un girone nordico, Germania, Olanda, Finlandia di un euro plus e l'euro che resta invece la moneta latina. Oramai se ne parla esplicitamente, anche l'ipotesi a cui hanno accennato Alesina, Giavazzi, Zingales. Lei che ne pensa, professore? Devo partire da quale punto? Dall'ultimo o dal... No, partiamo da quello italiano, andiamo dall'Italia, dalle cose meno serie, purtroppo lo dico con un minimo, a quelle più serie, sì. Ma dalla costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, certo, nel disegno di legge non è previsto alcun tetto alla pressione fiscale. Ora, è molto differente raggiungere un pareggio di bilancio con 60% rispetto al PIL di entrate e uscite o raggiungerlo con il 40%, con il 40% sempre di entrate ed uscite. Questo è uno dei problemi. Altri problemi più in generale sono che porre come regola costituzionale quello che dovrebbe essere un obiettivo di politica economica lascia sempre un po' perplessi, e anche il fatto di abbandonare, si fa funzionare la regola costituzionale, alcuni gradi di libertà. Ora, dal punto di vista dell'economia, in realtà il legarsi le mani è una delle azioni previste in politica economica per dare credibilità all'azione di governo e quindi riuscire a influenzare i comportamenti degli operatori. Io, oltre al problema del tetto alla spesa, porrei anche il problema della cosiddetta Golden Rule, che riguarda non tanto il pareggio di bilancio, ma il fatto che sia permesso l'indebitamento una volta messa come regola il pareggio di bilancio, si è permesso l'indebitamento per gli investimenti pubblici, che non si tratta di annacquare la regola, ma di seguire una razza economica che riguarda uno l'equità intergenerazionale, perché diciamo i benefici e gli investimenti vanno anche alle generazioni future, e poi la razza che il rendimento degli investimenti diretti o indiretti attraverso il reddito generale finanziano la restituzione del debito. La linea esattamente che poi noi non abbiamo seguito in questi anni, perché tra le tante particolarità, oltre a inseguire solo per via fiscale la crescita delle spese, noi abbiamo sul totale della spesa pubblica regolarmente in questi anni bastonato e depresso la componente per gli investimenti fissi lordi e il complesso comunque della spesa per investimenti pubblici rispetto al fatto che cresceva la spesa corrente, anche qua con una ratio che non è molto non si spiega se non come auris capitis della spesa corrente della parte della politica al comando. Mi dispiace, ma questo è il mio giudizio, non so come la pensi lei. Per arrivare invece poi, professore, agli scenari più euro inquietanti ed euroseri, che sono poi quelli che muovono il più degli interventi dei mercati, al di là di quello che si concentra sugli acquisti o vendite italiane in vista di scadenze come le aste di domani, lei ci crede o non ci crede all'ipotesi di una distinzione oramai in due aree, in due gironi dell'euro? Ma io sinceramente non ci credo molto, almeno nel breve periodo, soprattutto perché in realtà l'euro, che riflette i fondamentali di un'Europa divisa, non dico in due, ma insomma che distingue tra una parte più forte e una parte più debole, è un euro che fa comodo alla componente forte, alla Germania, come è stato più detto. Un euro plus implicherebbe una forte sopravvalutazione, insomma, da parte loro. Una forte sopravvalutazione dell'euro plus, come se, ai livelli di che acquisterebbe un presunto marco, e quindi potrebbe porre in discussione la grande crescita tedesca tirata dall'esportazione. D'altra parte, la dimissione di Stark, un po' anomala a mercati aperti, direi, in fondo si può interpretare anche come un prevalere, almeno nel governo tedesco, di una linea differente, cioè la consapevolezza che se si trascina l'Europa in un processo deflattivo così forte, questo bloccherebbe anche la Germania. Ed è un problema che va risolto. Io più volte ho detto che uno dei fattori che unisce più l'Europa in questo momento, che diverge in tutte le politiche, dalla politica estera alle politiche energetiche, è proprio l'esistenza del debito che lega, come sempre, debitori e creditori, in questo caso tramite il sistema bancario lega i paesi deboli ai paesi più forti. Credo molto, però il problema è che l'Europa rischia di andare nel precipizio se non cambia complessivamente la politica. La dimissione di Stark, non so se sono un cattivo segnale o un buon segnale. Allora, da questo punto di vista, nelle scelte, diciamo quelle più rilevanti, di passaggio allo SME, poi la terza fase della moneta unica e l'euro come valuta complessiva, in Germania uno degli aspetti che ha sempre avuto un certo peso nel valutare l'atteggiamento da far prendere al governo e alle istituzioni monetarie europee nei confronti del candidato Italia è sempre stata questa specie di argomenti, due pesi da mettere su due piatti della bilancia. Da una parte la preoccupazione sempre molto forte di una parte della politica, ma anche della Banca Centrale Tedesca, rispetto alla capacità dell'Italia di rispettare i suoi impegni, di avere finanze pubbliche strutturalmente in equilibrio e non in maniera tale da accrescere ulteriormente il peso del suo debito. Dall'altra però le preoccupazioni che gli ambienti imprenditoriali della Confindustria tedesca hanno sempre avuto nei confronti delle imprese manifatturiere italiane concorrenti, che insistono su alcuni poi segmenti, le macchine per automazione industriale per esempio e così via, che sono le stesse della forza manifatturiera esportatrice tedesca, magari i tedeschi a un livello un pochino superiore di valore aggiunto, ma a volte in diretta concorrenza, e l'impresa tedesca ha sempre premuto sulla Bundesbank come sulla politica, dicendo: non commettete l'errore di dare maggiori margini di svalutazione monetaria all'Italia, perché questo significa che noi poi perdiamo nell'export. Allora chiedo a Beda Romano, questa vecchia concorrenza di opinioni che ha ha spesso poi spinto la Germania, non dico a chiudere un occhio, ma per esempio ad accettare l'idea che stessimo con uno scatto di rene finali dell'euro fin dall'inizio, rispetto a chi invece ci diceva no, voi dovete stare un po' fuori perché dovete dimostrare di avere la virtù per poter entrare. È ancora così e viva nel dibattito pubblico tedesco, ancora oggi le imprese tedesche dicono alla politica tedesca state attenti a consentire all'Italia un euro debole latino, perché questi poi ci fanno un pochino il fondo schiena sui mercati nel manifatturiero, oppure sono cambiate le cose anche su questo? Ma io credo che in parte siano cambiate, ma credo che il ragionamento continui ad esistere in fette importanti dell'establishment economico tedesco. In parte sono cambiate inevitabilmente perché l'economia tedesca è molto più globale di quanto non lo fosse 10 o 15 anni fa, e quindi il confronto con l'Italia è un confronto molto meno acceso di prima. Ma credo che però il problema si ponga, e lo ha posto in un'intervista al Sole 24 Ore qualche settimana fa addirittura il presidente della BGA, che è l'associazione imprenditoriale che raggruppa gli esportatori tedeschi. E in questa intervista Anton Börner aveva messo proprio l'accento sui rischi di uno smembramento della zona euro e aveva spiegato, credo con grande lucidità, con una lucidità che per certi aspetti non appartiene all'establishment tedesco, aveva spiegato che un eventuale fallimento greco avrebbe avuto un effetto domino spaventoso sull'intera zona euro e avrebbe soprattutto provocato un aumento dei rendimenti obbligazionari in tutti i paesi dell'Unione Monetaria, non soltanto in quelli più deboli come l'Italia, il Portogallo o l'Irlanda. Aveva detto che anche i rendimenti obbligazionari tedeschi probabilmente aumenterebbero di fronte a un fallimento greco, semplicemente perché i mercati non sono più mercati europei o semplicemente mercati occidentali, i mercati sono globali, sono mercati che hanno anche una conoscenza forse solo indiretta dell'Europa e dell'Unione Europea, e quindi di fronte al fallimento per loro sorprendente, quasi inaccettabile, avrebbero penalizzato tutti i rendimenti obbligazionari di tutti i paesi dell'Unione Europea. Allora, anche Parigi è passata abbondantemente il CAC 40 sotto il 4% di perdite, vediamo che piega prenderà la giornata più avanti, ma per il momento siamo sul pessimo stabile, anzi pessimo in peggioramento. Stiamo rapidissimamente a un po' di ascoltatori. Nicola che chiama da Milano. Sì, buongiorno dottor Giannino, buongiorno ai suoi ospiti. Dunque, io lavoro nei mercati finanziari, le dico, sembra molto un intervento anche di mani esterne di una frangia tedesca che è contro l'euro, aiutata dagli americani, che non possono permettersi che l'euro diventi un sostituto del dollaro, cosa che sta diventando sempre più credibile. Di fatto l'anno scorso con la crisi irlandese, che era ben poca cosa rispetto a questa, l'euro era scivolato 1,20. In questa fase dove hanno attaccato di tutto e di più, dalle società di rating a tutti i problemi di Grecia, paesi uno dietro l'altro, Italia, Spagna e tutto quello che si vuole, il dollaro non è riuscito, se non fino a pochi giorni fa, a scendere sotto quota 1,40. Il fatto è che l'euro sta diventando una valida alternativa al dollaro e loro non se lo possono permettere. Allora Nicola, aspetta, è chiaro, adesso chiedo a Seminero cosa ne pensa. Sta diventando, insomma, finché i mercati delle commodities, finché le riserve sono 2/3 in dollari, perché i mercati delle commodities sono in dollari, questo non lo so. Però ecco, sugli acquisti che ne pensa Seminero? C'è questa parte, diciamo, evidentemente leggibile, il selling americano sull'Europa e sull'Italia ha anche una strategia di questo tipo ed è organizzato in forza anche per questo obiettivo di cambio internazionale oppure no? Ma io sinceramente non credo, perché sono tali e tanti i volumi di fondi, di flussi di fondi che sono coinvolti, che pensare a un meccanismo più o meno concertato per andare a mandare in crash l'euro, e per poi per quale motivo? Cioè agli americani serve un dollaro debole, no? Il dollaro, se il dollaro si rafforza perché l'euro cede miseramente, non vedo quale possa essere l'utilità degli americani. Ecco, io onestamente queste letture non riescono proprio a convincermi. C'è evidentemente un'attività di speculazione speculazione intesa non in senso demoniaco, senza nessuna connotazione morale, ma come operatori di mercato che puntano quelle che sono le debolezze, le contraddizioni di una struttura e cercano di farle esplodere, no? Non vedo nessuna attività cospirativa in questo senso. La penso un po' anch'io così. Stefano dalla provincia di Roma, prego Stefano. Sì, salve. Dunque, io vorrei ritornare a bomba. Al pareggio di bilancio. Sì, un saluto a tutti, ma anche perché sull'euro sta succedendo e sulla, tra virgolette, Europa sta succedendo quello che decine di economisti saggi avevano detto 15 anni fa. E quindi è inutile sprecare altre parole, insomma, perché non si fa un'unione politico-economica soltanto basata su una moneta che poi... Senza unificare i mercati sottostanti, diciamo così. Un'inflazione enorme. Va bene, che del pareggio di bilancio che dice invece? Si parte e poi... Del pareggio di bilancio che dice? Se dice che non ne vuole parlare, però allora, se ne parte. No, è perché parliamo di cose insomma abbastanza conosciute. Allora, il pareggio del bilancio secondo me è una cosa molto semplice farla, cioè anche il contadino sa fare queste cose, però il contadino quando le vuole fare le fa, e il problema è di volontà. Adesso possiamo dire 3.000 cose, possiamo dire, portiamo un discorso sull'evasione fiscale che già adesso se ne parla, dopo tanti anni che non se ne parlava mai, chissà com'è. Andiamo a vedere i privilegi dei politici, i privilegi della Chiesa Cattolica, però il problema è uno solo, se si vuole fare o se non si vuole fare. Poi noi siamo un paese eccezionale, abbiamo delle ricchezze culturali, turistiche, che soltanto noi possediamo e si tratta solo di sfruttarle. E come dicevamo prima con Beda Romano, c'è un po' una storia di lungo periodo invece dei comportamenti pubblici sugli equilibri tra spese e entrate e quanto poi per riequilibrare si ricorre a prioritariamente alla via delle entrate invece che alla riduzione di spesa. Professor Tria, dopo questi diciamo più di 8 anni su 10 del centrodestra, se le dovesse chiedere un giudizio su come ci siamo arrivati dopo aver detto che eravamo fuori dalla crisi, che non usciamo meglio degli altri, che non abbiamo toccati il risparmio degli italiani come vera grande ricchezza, infatti finirà patrimoniale dopo averlo detto tante volte. Lei invece che impressione ha? Quanto di colpevolezza, quanto di cecità e quanto di tendenza di lungo periodo c'è in questa storia italiana sempre aperta? In questa storia giustamente italiana sempre aperta c'è che sono 10 anni che aspettiamo di fare delle riforme, dico alcune riforme sono state fatte sul mercato del lavoro, in questa manovra non si parla per esempio abbastanza dei provvedimenti sul mercato del lavoro, che sono gli unici provvedimenti che non sono né di entrata né di spesa, ma che hanno, possono avere un effetto importante. Sono state fatte le riforme, ma che devono essere implementate sulla pubblica amministrazione, ma aspettiamo ancora tutte le riforme liberali, quella rivoluzione liberale di massa di cui si è parlato 10 anni fa. Ora, il problema è che probabilmente nelle forze maggioranza ci sono delle contraddizioni rispetto a questo obiettivo di fondo tra, diciamo, tra colbertismo e rivoluzione liberale di massa. Si possono creare dei corticircuiti, diciamo. Quindi non c'è stato, io credo, un periodo di finanza allegra da questo punto di vista, per cui si diceva prima l'Italia è in grado di sostenere questo debito. Beh, in situazione di mercati calmi, cioè prima della crisi finanziaria, l'Italia sosteneva questo debito da decenni, quindi nessuno ha messo mai in discussione l'insostenibilità. Ciò che era messo in discussione era il costo di questa sostenibilità e quindi il tasso di crescita. Allora, nel frattempo, pessime notizie da Parigi, perché abbiamo Société Générale Agricole che stanno -11%, -12%, BNP -7,7%. Iniziano ad esserci timori, come è evidente, il mercato sconta che ci siano possibilità elevate ormai di downgrade di grandi banche francesi per la quantità di carta pubblica che hanno dentro. Lo spread BTP Bund è a 384 in questo momento, quindi come vedete non è vero che è tutto finito, non è finito neanche per idea. Questo significa, cari ascoltatori, che parleremo presto di nuove manovre. Faccio una scommessa nuova con voi, nuove manovre in presentazione della legge di stabilità, cioè tra 2 settimane saremo sempre qua a dirvi come ci si accagnano nel portafoglio e perché i mercati sono cattivi o perché Mario Seminario c'era da vedere e chi doveva vedere non ha saputo vedere? È probabile la seconda. Allora, Mario Semeniero, le do appuntamento di nuovo qua, perché credo che dovremmo ancora aprire occhi e orecchi e a chiedere agli ascoltatori, ovviamente, e ai nostri interlocutori in Europa, di aiutarci a capire se oltre il 60% di entrate sul PIL ufficiale può bastare oppure no, prima che i politici capiscano che forse bisogna fare misure di taglio non lineari e riforme. Quelle riforme liberali di cui parlava il professor Tria, lui ha detto da 10, io direi da 17 anni. Molti mi dicono che sono diventato troppo cattivo, duro, pagato dall'opposizione. No, semplicemente bisogna servire quello che sembra agli occhi di ciascuno di noi l'oggettiva, dura, a volte amara, amarissima realtà dei fatti. E in questo consiste il nostro mestiere e questa radio. Appuntamento a domani nel Nazionale Radio. 9 in punto. Yeah.